La versione di Oscar, di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, benvenuti a Oscar Giannino qui alla versione di Oscar in questo giovedì 9 gennaio 2014, 16:35 primi e 14 secondi in diretta agli studi della Radio 24 qua di Milano. Ci occupiamo oggi di un tema che purtroppo è ricorrente nelle cronache italiane ed è ricorrente ma c'è una novità. Lo spunto è una ennesima, nuova, retata in Lombardia e a Milano, avvenuta ieri da parte dei magistrati delle forze dell'ordine di uomini delle cosche, dell'Andrina, quindi della mafia calabrese per capirci, implicati imprenditori. In questo caso erano delle attività di gestione e vigilanza in discoteca, ma a fare rumore e ad attirare l'attenzione, ed è questo il motivo per cui oggi torniamo su questo tema, sono state le dichiarazioni rese dai responsabili della polizia giudiziaria e dai magistrati che hanno effettuato i provvedimenti ieri di custodia cautelare e di arresto, che sono stati di un tono diverso dal solito, un gradino più alto rispetto al reiterato allarme. Sono decenni che nel cuore dell'economia italiana, qua in Lombardia, a Milano, le prove dell'infiltrazione delle mafie, soprattutto dell'andrangheta calabrese, sono diventate sempre più sistematiche e numerosissimi, quindi i procedimenti giudiziari che poi negli anni si sono accumulati. Ma ieri, appunto, nel presentare alla stampa i risultati delle indagini e i primi provvedimenti assunti, è avvenuto che il magistrato della Direzione distrettuale antimafia, Paolo Storari, che ha coordinato le indagini e che ha chiesto quindi e poi ai sostituti procuratori della Procura di Milano di effettuare gli arresti, ha dichiarato che lo schema di questa indagine, comprovato da questa indagine, è uno schema che comprova una realtà completamente diversa dal solito. Le parole del magistrato del pubblico ministero Paolo Storari sono queste: è uno schema che non rende l'idea, quello tradizionale della cosca che si infiltra e che cerca contatto e affari con gli imprenditori. Qui non è più, sempre sue parole testuali, il cattivo che aggredisce il buono. Non è il virus che attacca il corpo sano. Oramai sono gli imprenditori, dice Storari, a cercare i malavitosi e non l'opposto. E le stesse parole sono state poi confermate e rilanciate anche da Biagio Storniolo, il comandante del reparto operativo, che ha detto testualmente: è un quadro desolante quello che emerge, l'imprenditoria locale che diventa compartecipe delle attività della consorteria mafiosa. In questo caso stiamo parlando di un'andrina, quella Barbaro Papalia, una famiglia con radici nella Platì, Calabria dell'Ottocento, ma i cui diretti discendenti sono oggi presenti in Lombardia. E infatti nelle indagini il clan centrale di cui questo Barbaro Papalia è un'emanazione è ancora una volta quello dei Catanzariti, di cui si hanno le prime tracce nelle indagini, nei provvedimenti assunti dalla magistratura, addirittura a Milano nel 1966, quindi è una storia cinquantennale. Allora ci siamo chiesti, di fronte ai magistrati e a responsabili di polizia giudiziaria che lanciano l'allarme con questa forza e dicono ormai sono gli imprenditori a cercare gli indranghettisti, di richiamare l'attenzione di tutti e di rivolgerci proprio agli imprenditori per sapere cosa pensano loro di queste parole, di questa fotografia, cosa fanno, cosa si può fare. E quindi abbiamo chiesto di commentare insieme a noi oggi, chiedendo anche a voi, chiamate l'800 24 0024 per dirci cosa ne pensate di questo ribaltamento del fatto che non sia più l'andrangheta a cercare l'impresa ma l'impresa a cercare l'andrangheta, se ve ne convince, se secondo voi è davvero così. Ma comunque abbiamo con noi per commentare Antonio Calabro. Antonio Calabro di formazione è un giornalista, è direttore della fondazione Pirelli ed è membro del comitato di presidenza di Assolombarda e vicepresidente del centro per la cultura d'impresa. Lui ha all'interno della presidenza di Assolombarda, guidata da Gianfelice Rocca, proprio la delega per la legalità, che in questi anni è diventata una trincea per le imprese. Grazie di essere con noi, ad Antonio Calabro. Grazie a voi, grazie per l'attenzione. Allora, le posso chiedere innanzitutto di commentare queste parole così dure e nuove del PM Storari? Io credo che l'attenzione della Procura della Repubblica e degli inquirenti sul fenomeno dell'andrangheta a Milano e Lombardia sia benvenuta. Non è una novità, un'attenzione così pertinente e puntuale soddisfa Solombarda. Nella dichiarazione che abbiamo già fatto ieri, subito dopo le parole dell'assoluto procuratore, abbiamo detto a Solombarda e con la Procura della Repubblica in questo impegno antimafia. Seconda considerazione, la presenza della 'ndrangheta, così come prima della camorra e della mafia, è una presenza fortemente distorcente del mercato economico e delle regole della concorrenza. Alle imprese per bene che lavorano sui mercati, che fanno fatica, che investono, che innovano, non avere mafia, camorra e 'ndrangheta in mezzo ai piedi serve moltissimo. La mafia, la camorra e la 'ndrangheta sono dei grandi elementi di distorsione dello sviluppo. Questa è la considerazione di base. Dopodiché, gli imprenditori, io non generalizzerei, ma proverei a distinguere. Ci sono imprenditori che cercano garanzie, assicurazione e scorciatoie, avendo rapporti con le famiglie della 'ndrangheta, stando in quella che in Sicilia, per esempio, per anni è stata l'area grigia della cosiddetta borghesia mafiosa, di chi faceva affari in settori contigui, per esempio alla pubblica amministrazione, saltando le regole di trasparenza degli appalti, avendo finanziamenti che non rispondevano a logiche bancarie ma a logiche sotterranee e così via di questo passo. E ci sono imprenditori, la maggioranza delle imprese lombarde, che soffrono questa distorsione della concorrenza. Per questo la scelta della legalità per la Solombarda è una scelta strategica. Ricordo un vecchio titolo dell'Ora, giornale di Palermo, attentissimo alla mafia. Che ha fatto un pezzo di storia del giornalismo italiano nella trecentesima. Un pezzo di storia del giornalismo italiano, che poi per me è un pezzo di ricordo. Io ho lavorato 15 anni allora a Palermo, in anni anche molto drammatici, in cui il contrasto tra le poche imprese buone e l'inquinamento mafioso era molto duro, molto forte. Ricordo un titolo dell'Ora che diceva: la mafia da pane e morte, soldi e devastazione. Quel vecchio titolo è un titolo attualissimo. Le imprese lombarde, su Lombarda, sono perfettamente consapevoli che per avere sviluppo serve avere un quadro di trasparenza, serve avere un'azione repressiva nei confronti delle famiglie, della 'ndrangheta, della mafia e della camorra, e un quadro di mercato efficiente e ben regolato. Allora, lei ha parlato di azione repressiva, e quella giustamente la devono fare le forze dello Stato, cioè gli inquirenti, le forze dell'ordine nelle indagini. Naturalmente quello che le chiedo come rappresentante del sistema dell'impresa quale a Solombarda, a Milano, è cosa si può immaginare di fare, e di fare di più e meglio, per la parte culturale preventiva, per così dire, da parte dell'impresa. Cioè, in questi anni c'è stato un dibattito sulle novità che, proprio partendo da quella Sicilia che lei ricordava, in Confindustria, poi si sono estese in tutta Italia per l'azione di alcuni imprenditori che hanno cambiato gli statuti, hanno detto: noi cominceremo a cacciare i collusi senza fare i garantisti fino al terzo grado di giudizio, e così via. Ecco, ma nella realtà di Milano, in realtà, che cosa in questi anni le imprese hanno provato a fare dal punto di vista culturale preventivo? Solombarda ha messo 5 anni fa la parola legalità al centro delle proprie strategie e ha adottato criteri di comportamento e codici analoghi a quelle delle imprese siciliane. Come dire, non declamazione, ma intervento concreto. Abbiamo fatto un'altra cosa. Per esempio, organizzare con Fondirigenti e con Aldai dei corsi di formazione che sono conclusi per formare manager in grado di gestire le aziende confiscate alla mafia. Una prova concreta per dire che le aziende mafiose distorcono il mercato e, quando sono fuori dalle logiche oscure, falliscono. La gestione normale, corretta, in mano a manager competenti, invece, può assicurare garanzie di continuità con le stesse imprese. Quindi scelte molto concrete, c'è una strategia di fondo, civile e culturale. Noi siamo convinti di avere una grande responsabilità civile sulla correttezza, la legalità e la trasparenza, e una sfida anche molto concreta. Le imprese gestite da manager competenti, con regole sui contratti di lavoro, sul credito, sulle forniture, tutte legali, regolari, trasparenti, visibili e specificabili, sono un modo per assicurare il sviluppo a lungo periodo. La mafia può fare circolare soldi facili, ma nel lungo periodo distrugge l'economia. Allora, io adesso le faccio una domanda, poi la risposta la rinviamo a dopo il minuto di informazione stradale. Negli anni, a metà degli anni 60, quando iniziò a diventare più evidente il fatto che c'era un radicamento, un trasferimento della presenza per via dei provvedimenti cautelari che allora prevedevano l'espianto dalle regioni meridionali verso il nord, ma poi anche seguendo la corrente dei denari verso nord delle grandi organizzazioni mafiose, da allora a oggi la situazione è molto diversa. Cioè, oggi verrebbe da pensare che di fronte al morso da una parte delle imposte, dall'altro del credit crunch, in una situazione in cui abbiamo un quarto di produzione industriale in meno rispetto al 2007 e un quarto di investimenti in meno, non sia solo l'andrangheta, le altre reti criminali che stanno a nord, sono venute a nord perché qui ci sono più possibilità di riciclare e di diventare anche impresa magari trasparente controllandola, ma le chiedo quanto la percezione che avete voi è che le difficoltà crescenti di tante dei vostri aderenti li portano a considerare l'ipotesi di affidarsi a questo contropotere più efficace dello Stato per tanti versi. Ecco, quanto conta il morso della crisi in parole come quelle, nella realtà descritta ieri dalla direzione antimafia? La versione di Oscar. Eccoci qui, tornati in diretta, 16:46, 43 secondi da Radio 24. Stiamo tentando di capire meglio, con un rappresentante qui della presidenza della Lombarda, reazioni, opinioni del mondo delle imprese qui in Milano e Lombardia di fronte a parole tanto nuove e dure nel descrivere una realtà in cui il pubblico ministero Solari ieri ha detto: non sono più gli indranghetisti che cercano gli imprenditori, è l'esatto opposto oramai, non è più un'infiltrazione, non è più un virus che attacca un corpo sano. Quindi parole molto pesanti, ripeto, da parte degli inquirenti e dei responsabili della polizia giudiziaria. Prima di dare di nuovo la parola ad Antonio Calabro, che è qui con noi, voglio rassicurare, perché ci sono alcuni ascoltatori che mandano gli sms dicendo: ma non avevi detto che continuavi ancora sul lavoro invitando Cesare Damiano e Taddei? Sì, e infatti lo faremo nei prossimi giorni, continueremo a occuparci, visto che trovate sui giornali e troverete nei prossimi giorni in maniera crescente particolari su le misure del lavoro proposte da Renzi. Lo faremo sia con membri della segreteria di Renzi sia con esponenti dei sindacati e di altri indirizzi rispetto a quello di Cazzola che abbiamo avuto in altri due giorni. È un impegno preso, ma lo faremo. Noi non abbiamo un punto di vista da presentarvi, ma semplicemente approfondimenti da più punti di vista su queste misure che sono essenziali, perché, come avrete capito, gli interventi sul lavoro sono l'emergenza vera per riacquistare credibilità e credo anche per rimettere un po' di cose a posto in questo governo che traballicchia, per così dire. Ma torniamo con Antonio Calabro. I morsi della crisi portano più imprenditori disperati, che stanno peggio in piedi, a credere nell'antistato, secondo lei, anche qui a Milano e Lombardia? Credere nell'antistato no, io credo una cosa, che l'accelerazione della crisi e per esempio le restrizioni del credito possano tentare qualcuno a usare scorciatoie, ma sono scorciatoie devastanti. La posizione della Lombarda in questo è molto netta: non c'è alcuna ragione per rivolgersi mai ai finanziamenti e alle contiguità mafiose, perché, per essere chiari, possono pure arrivare subito quei soldi immediati, ma poi l'azienda è condannata per sempre a uscire dal controllo di quell'imprenditore che ha seguito la scorciatoia e a finire in mani mafiose. Si risolve un problema immediato, è come ricorso all'usura per certi versi, e non a caso la presenza mafiosa nel settore dell'usura è abbastanza forte. Si risolve un problema immediato, ma ci si infila in una strada che porta al disastro. Allora, sentiamo, abbiamo un ascoltatore, Davide, che ci chiama da Milano. Prego Davide, buon pomeriggio. Buon pomeriggio Giannino. Mi permetto di fare un intervento, grazie per avermi dato la possibilità. Sì, figuri. A proposito del discorso dell'infiltrazione di associazioni mafiose o organizzazioni criminali nelle aziende del nord. Sì. È chiaro che ci sono alcuni imprenditori che giocano in modo sporco e sono collusi e consapevoli. Ce ne sono però anche altri che, a fronte di necessità di richieste di denaro, vengono incastrati in situazioni che non sono premeditate o pensate, e delle volte anche, purtroppo è brutto dirlo da cittadino, però sono cose che si sentono girando per le città e facciandosi con altri imprenditori, che delle volte per poter anche, faccio un esempio, fare il recupero credito. Cosa significa? Io avanzo del denaro a fronte di merci. Oggi tutti sono diventati cattivi pagatori e quindi si è allungata molto la catena. È ovvio che lo recupero Stato credito è un'emergenza. Non ci tutela, lo Stato non gli interessa che avanziamo denaro da altre aziende, gli interessa solo che devono recuperare l'IVA e tasse. Certo. Fa uno, va in mano al legale. Passano 5, 6, 7 anni, intanto paghiamo spese. Molte persone, è brutto dirlo, trovano scorciatoie e si avvalgono di persone con delle macchie sicuramente nere, non rose, chiarissimo, però delle volte riescono a ottenere risultati portando a casa soldi magari in un modo aggressivo che l'imprenditore non ha la forza e la capacità di poter attuare. È brutto dirlo, lo ripeto ancora, però lo Stato cosa fa? Quante persone hanno denunciato abusi per cosiddette estorsioni o il pizzo? Che fine hanno fatto quegli imprenditori che hanno usato? Allora, Davide, lei pone una questione di fondo, perché questo è un altro pezzo della cultura preventiva, cioè creare un ambiente per il quale sia incentivato, incoraggiato e poi tutelato chi è vittima di estorsioni, richieste improprie o finisce esattamente nel circolo che ha detto lei, a dirlo agli inquirenti, a mettere in condizione quindi poi di riparare lo Stato. E il problema del sostegno è un problema che noi ci trasciniamo da tanti anni. Si ricorda sicuramente la fine che fece proprio a Palermo Libero Grassi, esattamente un imprenditore antesignano che finì assolutamente isolato e finì come finì, purtroppo. Allora, la domanda che io faccio a Antonio Calabro è: da questo punto di vista, la vostra sensazione qua in Asso Lombarda è che la tutela e il sostegno a chi volesse parlare e quindi dovesse essere a quel punto tutelato nella riservatezza, assistito legalmente, eccetera eccetera, questa è una cosa che fate, che si può fare meglio secondo lei, Calabro? Naturalmente tutto si può fare meglio. Voglio fare due velocissime considerazioni. La prima: puoi anche in un momento di disperazione rivolgerti a chi ti fa recuperare un credito, ma recuperi quel credito una volta e poi ti sei condannato per sempre a stare nelle mani mafiose. Non è una strada a ingresso e uscita facili e libere. È una porta di solo ingresso, per così dire. È una porta di solo ingresso da cui non esci. Prima considerazione. Secondo, io credo che sia necessaria una crescita del sostegno culturale, sociale e civile nei confronti degli imprenditori che resistono, e da questo punto di vista la scelta fatta da Asso Lombarda sulla legalità è una scelta molto netta. Siamo pronti ad ascoltare gli imprenditori e a lavorare con loro per contribuire a risolvere i problemi del credito, della burocrazia e del resto. Terza considerazione: la lotta antimafia è pensabile in un contesto più generale in cui snellisci per esempio la pubblica amministrazione, istituisci meccanismi di pagamento certi e trasparenti. Tra le tante campagne messe in piedi nei 50 progetti della Presidenza di Asso Lombarda e Fare Volare Milano c'è per esempio anche quella di stabilire regole per il pagamento veloce tra imprese, una sorta di certificazione di trasparenza e correttezza di velocità. Così come tra gli impegni a Lombarda c'è snellire i circuiti amministrativi. Più burocrazia c'è, maggiori sono i rischi di inquinamento e di contatto tra degrado della pubblica amministrazione, corruzione e presenza della 'ndrangheta della mafia. Io devo dire che la qualità del collegamento sta un po' decadendo. Molti dei nostri ascoltatori abituali, piccoli imprenditori, continuano sempre a richiamare la nostra attenzione sul fatto che molti grandi gruppi a volte predicano e chiedono giustamente allo Stato di essere un buon pagatore. Lo Stato è il primo che non paga i suoi debiti commerciali alle imprese e poi però ritardano a proprie volte, pur pagando meno il denaro del piccolo imprenditore, i pagamenti ai propri fornitori. Questa è in molte filiere, continuiamo ad avere queste segnalazioni, quindi questa autocertificazione dei tempi rapidi delle grandi imprese, le medie imprese verso i piccoli dovrebbe essere davvero, secondo me, un punto di forza per tentare di rappresentare una svolta. La domanda che le devo fare per forza, perché molti ce lo stanno già chiedendo, è che a Milano è in arrivo l'Expo qua nel 2015 e quindi siccome intorno alle opere pubbliche, agli appalti, alle opere straordinarie, con i tempi più rapidi fuori dalle procedure ordinarie, pesantissime peraltro, che sono un freno alla nostra crescita, di solito si appunta la fame e le aspettative delle grandi reti criminali. Ecco, da questo punto di vista Maroni ci torna sempre sopra, ma come Asso Lombarda che cosa bisogna attenderci e che cosa pensa delle procedure già messe in atto per dire sarà un Expo mafia free? Faremo tutto quello che siamo in grado di fare per contribuire a questa campagna, l'Expo mafia free. L'Expo è una grandissima occasione di internazionalità di Milano, di immagine, ma anche di costruzione di ricchezza è il lavoro. Ed è interesse delle imprese innanzitutto che tutto avvenga in modo assolutamente legale, assolutamente trasparente. Quindi è impegno e battaglia all'interno dei nostri processi di lavoro e in contatto con le istituzioni. Senta, le posso fare una domanda? E quanto, lei prima ha parlato di Sicilia, ci ha ricordato che ha lavorato lunghi anni sulla trincea del giornalismo siciliano. Dovesse dare un giudizio storico a questo punto, prescindendo dal fatto che ha una responsabilità attualmente nella presidenza di Assolobarda e così via. Ma le imprese del Nord, prima che si radicasse così tanto questo fenomeno, secondo lei, storicamente, hanno fatto davvero quello che si poteva fare? Perché da dove vengono queste grandi reti criminali per la presa storica che avevano, fosse un po' più difficile immaginare che diventasse poi un problema di tutta Italia. Cioè, non c'è davvero una bilancia negativa da questo punto di vista, al di là delle forze dello Stato, che sono preminenti, la responsabilità pubblica è dello Stato, però le forze della società civile, non è che da questo punto di vista hanno qualcosa da rimproverarsi, secondo lei? Io credo che per anni ci sia stata una sottovalutazione, anche in ambienti imprenditoriali, dei rischi del degrado mafioso, soprattutto nel mondo dei lavori pubblici e della fornitura nei confronti degli enti pubblici. Parlavo poco fa di borghesia mafiosa e imprenditoria collusa nel Mezzogiorno. Vorrei ricordare che c'è stata comunque nella storia di questo paese un'attenzione di una parte della finanza e dell'economia italiana sui rischi del degrado. Voglio ricordare la battaglia fatta da Mediobanca contro Sindona e come no. Mafiosi. Quindi un'attenzione c'è e le pagine che hanno a che fare con l'economia e la mafia sono pagine anche in cui c'è stata una resistenza molto seria, molto forte, molto netta, e nel caso di Mediobanca su Sindona, Mediobanca, Banca d'Italia, il Ministero del Tesoro, anche una strategia vincente. È immaginabile anche che gli imprenditori stiano da fare perché ci sia una sensibilità tra i giovani qui nel Nord come nel Sud, o è stato uno dei movimenti più forti per la presa di coscienza contro la mafia? Ma sicuramente sì, parlavo poco fa di impegno e di responsabilità civile che Assolobarda sente come proprio compito, che vuol dire parlare con i nostri iscritti, con gli imprenditori, con i giovani, con le varie forze dell'economia, per dire questa cosa molto semplice: la mafia distrugge lo sviluppo. E quindi bisogna dirlo nelle scuole. Io ringrazio molto Antonio Calabrò. La mia opinione è che purtroppo questi problemi sono più gravi perché c'è un problema di sistema nel nostro paese, di affidabilità delle procedure, di pesantezza, eccetera, eccetera. L'antistato a volte, io credo davvero che possa sembrare molto più efficace, più rapido, più immediato nel dire: se ti fidi di me, vedrai che purtroppo dipende anche dal sistema. Cambiamo e voi continuate su Radio 24. A domani.